Ci siamo lasciati nel gennaio del 2024 con l'architetto Lukin, quando in una bellissima serata di gennaio ci ha portato su altre dimensioni con la sua conferenza e anche l'opera che aveva portato da lui eseguita personalmente, e ci aveva così traghettato nel mondo di Heidegger con la conferenza La quadratura di Heidegger, il sorprendente racconto di come il processo mentale favorisca la creatività umana. È un tema che ci affascina, che ci aiuta anche a crescere, a continuare a crescere, a rimanere sempre curiosi, e questo è un po' il leitmotiv anche delle attività e dei messaggi che ci lascia sempre Claudio Lukin, che è con noi appunto anche questa sera con un nuovo argomento, ma che in realtà è sempre legato alla sua filosofia di vita, ed è la città è teatro, il teatro è vita e la vita è intelligenza. E qui mi permetto di agganciarmi anche a questo titolo, perché c'è una metafora usata nel mondo classico degli antichi greci, poi ripresa anche dai padri della Chiesa, che dice che la vita è come un teatro. Si entra, si guarda e si esce, e l'attrice, oppure Dio, insomma, a seconda delle declinazioni, è il vero regista, ma noi siamo tutti degli hypocrites, cioè degli attori, e da qui poi l'accezione dell'ipocrita come finzione. È una metafora che mi ha sempre affascinato, per cui questa sera sarò molto contenta di ascoltare fin dove posso, ma poi anche di riascoltare, e qui vi ricordo che la nostra biblioteca ha una sezione di podcast con tutte le conferenze registrate, quindi se volete riascoltare qualcosa, gli ultimi 22 anni sono dentro e si possono riascoltare agevolmente dal proprio PC oppure dal telefonino. Con questo lascio subito la parola al nostro protagonista, che ringrazio molto, e ringrazio tutti voi di essere qui presenti e di seguire le attività della biblioteca, che non si fermano qui, perché la prossima settimana, il 30 di settembre, avremo i manoscritti datati di Bolzano e provincia con Leonardo Granata ed Ursula Stampfer, e ci sarà anche un accompagnamento musicale in occasione della presentazione di questo libro di documenti archivistici medievali. Grazie a Claudio Lukin e grazie a tutti voi. Buona serata. Penso che userò questo. Sì. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Il teatro è una grandissima passione da sempre. A parte chi mi conosce sa che faccio l'architetto e che è una grande passione. Ma al secondo anno di università, aneddoto per incominciare, incontro Antonio Taglioni, che in quegli anni, grande regista italiano di teatro, lavora per il Teatro Stabile, e a un certo punto mi chiede di fargli da assistente. Devo dire che uno sbandamento l'ho avuto, nel senso che ci ho pensato un attimo, forse mollo architettura e vado a fare come impiego l'uomo di teatro, la regia, forse anche qualcos'altro. Poi ovviamente la razionalità che ogni tanto ci prende mi ha fatto proseguire qualcosa che comunque mi piaceva molto. Però leggendo negli ultimi anni una serie di cose, scrivendo anche un libro su quello spettacolo che ho fatto 3 anni fa, Magnifica imitazione, che qualcuno di voi ha visto a teatro, al Teatro Comunale di Bolzano, di Gries, durante questa scrittura, leggendo e rileggendo vari testi, emerge più volte che la vita è teatro. E quindi quello che mi sono posto è: ma il teatro che noi viviamo oggi, e che spesso io, che sono un vecchio abbonato dello Stabile, da oltre 20 anni sono abbonato allo Stabile, ma qualche volta esco annoiato. E io non voglio trattare qui adesso temi inerenti alla regia, ai testi, agli attori e via dicendo. Ma è semplicemente uno spettacolo, come tanti altri spettacoli, che spesso fanno fatica ormai a avere forza, perché si devono confrontare con spettacoli che sono tecnicamente più forti. È evidente che un giovane è più attratto da un film che ha infinite possibilità tecniche tridimensionali rispetto a un teatro dove il massimo è vedere recitare bene un attore o ascoltare un testo. E quindi quello che io questa sera proverò a raccontarvi e a dimostrare è che in realtà il teatro, l'hanno detto i grandissimi della letteratura, della filosofia, del pensiero, da sempre, che il teatro è vita. Allora io partirò raccontandovi come la città nel corso dei secoli si è trasformata in un vero e proprio teatro, che è poi la mia materia, diciamo, di professione. Poi, come il teatro è vita? Perché il teatro è vita? Quando nasce il teatro? Noi, banalmente, lo facciamo risalire tutti alla Grecia. I grandi autori classici, Eschilo, Sofocle, Euripide e via dicendo, gli attribuiamo l'aver iniziato. Ma il teatro, che conosciamo come prodotto della cultura umana. Ma non è che per caso il teatro è nato molto tempo prima, e lo vedremo dopo. E poi, ovviamente, e i sillogismi li fate automaticamente voi, se la vita è intelligenza, perché non può essere nient'altro, questo ce lo dicono le neuroscienze, è evidente che allora la città è intelligenza e il teatro è intelligenza, perché se una cosa richiama l'altra, la città è teatro, il teatro è vita e la vita è intelligenza, collegandole automaticamente viene fuori questo. Partiamo dal primo capitolo. E potrebbe essere facile dire quello che diceva o che fa dire Tucidide, il più grande storico della Grecia, al primo cittadino Pericle, il primo cittadino di Atene, che la città nel suo insieme è un'impresa educativa per tutta la Grecia, come a dire che il teatro sarebbe stato capace di rinnovare il pensiero e la valutazione morale dell'agire umano, e per questo non poteva esserci teatro senza città, ma nemmeno città senza teatro. È evidente che ci sono momenti nella storia, anche più recente a noi, pensate semplicemente Venezia nel 6-700, era una città strapiena di teatri e l'attività teatrale era una funzione al tempo dei Greci, ma successivamente anche dopo, una funzione che non serviva semplicemente per passare del tempo o per dire, come spesso diciamo noi oggi, è qualcosa di interessante perché fa parte della cultura con la C maiuscola. Vorrei aprire una brevissima parentesi. Quando noi parliamo di cultura, la cultura che a me interessa veramente è quella che permette alla nostra specie, la specie di Homo sapiens, ma degli uomini in generale, di evolvere. Noi abbiamo due sole possibilità, gli animali ne hanno una. Loro evolvono semplicemente per questioni genetiche. Se ci sono delle mutazioni, possono evolvere. E noi, fin tanto che siamo stati dei semplici animali, potevamo evolvere solo per mutazioni genetiche, non c'era un'altra possibilità. E ogni mutazione genetica ha un periodo molto lungo. Non accade mai, la natura non fa mai cose in fretta, siamo noi che facciamo le cose in fretta. La natura ci impiega millenni per cambiare qualcosa. E quindi per poter variare anche minimamente la nostra struttura biologica e non solo, ci si impiegava molto tempo. Ma poi l'uomo, con l'evoluzione che lo ha accompagnato, si è inventato qualcosa di straordinario e solo noi lo abbiamo, lo facciamo, che è la cultura. Tutti i gesti che ci siamo inventati per migliorare qualcosa della nostra vita. E faccio un esempio molto semplice, il cibo. Tutti gli animali, direte voi, mangiano, certo, ma tutti gli animali mangiano crudo. Non c'è nessun animale che cucina il proprio cibo. Noi ce lo siamo inventati circa 800.000 anni fa, forse 1 milione di anni fa, quando abbiamo iniziato a controllare il fuoco, e questo ha cambiato la nostra biologia. Cucinando il cibo siamo stati in grado di assimilare prima gli alimenti, di avere un'energia in un tempo infinitamente più rapido rispetto a mangiare cibo crudo, questo ci ha permesso di ridurre l'intestino e di aumentare il cervello. Nessun essere vivente può avere due organi altrettanto grandi. Consumano talmente tanta energia, la mucca ha un intestino gigantesco, no, e noi abbiamo un cervello grande. Qualcuno prima di noi lo ha avuto ancora più grande, la specie Neanderthal aveva un cervello più grande del nostro. E pare che sia scomparsa, forse perché si relazionava con noi e noi siamo una specie che elimina quasi tutti gli animali che incontra sul proprio percorso, ma un'ipotesi ancora più affascinante è che forse non fossero riusciti a creare una fisiologia adeguata per poter portare abbastanza sangue al cervello e mantenerlo. E quindi in qualche modo il cervello non è stato in grado di accompagnarli nel loro percorso di vita. Quindi dicevo, la cultura è quell'elemento che ci fa evolvere. Noi possiamo evolvere per mutazioni genetiche e per cultura. Se noi potessimo far rinascere Ezi, perché ne abbiamo la possibilità di estrargli il DNA, e fossimo in grado di iniettarlo in qualcun altro e farlo diventare un uomo di quel periodo là, di 5.000 anni fa circa, geneticamente è uguale più o meno a noi, ma se lui potesse rinascere, impazzirebbe immediatamente, perché noi siamo infinitamente diversi da lui. E quindi la cultura è fondamentale per questo, cioè è un volano incredibile di evoluzione. E oggi, con gli ultimi studi, tra le influenze dell'ambiente e le influenze culturali, ci dicono che poi una serie di fatti vanno dentro anche alla nostra biologia, modificano la nostra genetica. E questo si chiama epigenetica e via dicendo, che non è l'eugenetica nazista, che è un'altra cosa, ma semplicemente è cercare di capire come l'ambiente modifica anche noi. E il primo ambiente che noi abbiamo costruito in maniera forte, culturalmente forte, è la città. 9.000 anni fa iniziano le prime città, la più antica, Kataliouk in Anatolia e Gerico nella Valle del Giordano. Due città ancora molto semplici. 1.000 anni dopo, la prima città strutturata con i crismi di complessità, diciamo più vicina alle città di oggi, è Uruk. Questa è la città strutturata, organizzata in maniera complessa, con una serie di funzioni, e che ha circa 8.000 anni. Dicevamo che il teatro per i greci non serviva solo a perdere tempo, e loro ci andavano giornate intere a teatro, no? Doveva avere, come si dice, simultaneità di tempo e di azione, per cui stavano là molte ore perché doveva passare la giornata, perché una scena era ambientata di giorno e una di notte, quindi dovevano aspettare che arrivasse la sera. Ma in realtà era anche per comprendere tutta quella serie di elementi che ci accompagnano nella vita e ci guidano, e non so mai perché sti computer devono a un certo punto fermarsi, non vanno più avanti. Eccolo qua. Comprendere quelle forze nascoste che ci guidano, le passioni, la follia, l'amore che ci guidano, per cercare anche di comprenderle e quindi di controllarle. Queste sono forze incredibili per la nostra specie. Noi facciamo molte cose per passione, per amore, per follia, ma hanno una componente così forte anche emotiva che ci siamo dovuti inventare qualcosa, e lo vedremo dopo. Ma non era tanto questo che mi interessava mettere in evidenza del teatro. Quello che volevo dire è che le città nel tempo, e qui è il teatro di Taormina, no? Come si diceva prima, ogni città doveva avere uno o più teatri, perché era una funzione fondamentale della vita di quel tempo. Però quello che a me interessa raccontarvi è come le città si sono strutturate proprio come un teatro, prendendo alcuni elementi del teatro e mettendoli dentro all'urbanità. Qui siamo a Gubbio E questo che cos'è se non un palcoscenico? È nel punto più alto della cittadina. È sollevato sotto quei grandissimi arconi. A destra e a sinistra ci sono i due palazzi principali, Palazzo Pretorio e Palazzo dei Consoli. Dietro c'è un edificio neoclassico da fondale, mentre i due palazzi fanno da quinta scenica. E su queste piazze che diventano palcoscenici noi rappresentiamo la dialettica del convivere e la conciliazione degli opposti. Perché se noi non avessimo trovato un modo per provare a convivere e per metterci d'accordo quando non siamo d'accordo, le città non esisterebbero, cioè esisterebbero i villaggi, i piccoli villaggi, perché potevamo andare d'accordo fino a molti migliaia di anni fa soltanto in nuclei familiari. Poi è cambiato qualcosa nel corso della nostra evoluzione e abbiamo iniziato a organizzare comunità più grandi, ma per riuscire a convivere era necessario rappresentare tutto questo su questi palcoscenici naturali, nel quale poi venivano anche trasferite altre manifestazioni, ma questo è uno straordinario palcoscenico da cui quasi da ogni punto della città era possibile vedere quello che veniva fatto e quello che si rappresentava quotidianamente. La città rappresentano qualcosa in ogni momento. Piazza del Campo di Siena. E che cos'è Piazza del Campo? Una grande cavea teatrale. E la scena da che cosa è rappresentata? Dal Palazzo Comunale, la Torre del Mangia, il potere è lì dentro. Ma siccome è una piccola democrazia Siena, è un comune democratico per la democrazia come la intendevano allora, ogni cittadino entrando in piazza guarda quello che fa il potere e dice evidentemente, vi ricordate anche tutti gli affreschi che ci sono nel Palazzo di Siena, il buon governo, il cattivo governo, quindi io ti controllo tutti i giorni, io vedo quello che tu stai facendo, ma siccome non mi fido di quello che tu mi dici, io in piazza, ed è qui, ci metto un'evidenza ancora maggiore, Fonte Gaia, che non è quello che avviene oggi, facciamo una fontana perché è decorativo, il famoso arredo urbano. No, quella fontana lì, Fonte Gaia, ha una funzione precisa. L'acqua non la vanno a prendere da un pozzo che sta sotto la piazza, la vanno a prendere ai confini del contado. Per cui se il mio contado fosse stato occupato dall'esercito di Firenze, la prima cosa che faceva era chiudere il rubinetto dell'acqua. E io, cittadino, immediatamente capivo che il mio console, il mio capo dell'amministrazione non mi stava raccontando la verità, perché l'acqua non c'era più nella fontana. E siccome non c'erano allora le pompe come abbiamo noi oggi, che possiamo riciclare all'infinito la stessa acqua, se non arrivava fresca tutti i giorni l'acqua non c'era. E quindi questo in realtà è un grande palcoscenico politico, per quello che vi ho detto, ma perché il teatro mette in scena la politica, è atto politico per eccellenza il teatro, in cui un fatto minimo diventa generale una volta che è rappresentato. E la politica di che cosa si occupa? Dei fatti miei, tuoi, suoi? No, si occupa dei fatti di tutti, almeno dovrebbe occuparsi, perché la polis è la comunità nella città antica greca e politica deriva da polis, occuparsi degli interessi di tutti, non degli interessi di qualcuno. Oggi abbiamo questa percezione che la politica sia occuparsi degli interessi di qualcuno. Se poi sono potente, gli interessi sono ancora più forti, ma non è così che funziona. E noi abbiamo messo in mostra questa capacità che avevano le amministrazioni molti, molti secoli fa, di avere, con tutti i limiti, voglio dire, non sto mica dicendo che fosse tutto rose e fiori, ci mancherebbe altro, ma di avere una capacità di occuparsi dell'interesse di tutti. E tutti potevano rendersi conto se le cose erano corrette o meno. Cosa succede nel Rinascimento? E questo è un bellissimo, piccolissima tavola di Urbino che rappresenta la città ideale. Fino a quel momento il palcoscenico di tutti era il palcoscenico prevalentemente naturale, rappresentato dalla natura, dall'ambiente naturale. gli uomini si muovevano prevalentemente nell'ambiente naturale. Con le città che iniziano a formarsi e diventare sempre più grandi, il palcoscenico diventa sempre più quello urbano, con forme architettoniche spettacolari, perché ogni uomo possa ritrovarsi in quella prospettiva. E qui, proprio nel Rinascimento, rinasce, si riscoprono le leggi della prospettiva. E al centro ci mettiamo il principe, ma ci mettiamo anche l'uomo. È l'uomo che si sente padrone e tutto sommato attore principale di quella scena. Ma quella scena che voi vedete straordinaria, che cosa ci racconta? E poi l'unico esempio, non bellissimo, ma insomma l'unico esempio concreto di città ideale è Pienza, no? Lo raccontava anche ieri Campostrini sul giornale. Piccolo esempio, ma perché è di un papa, è il suo borgo natio, mette a posto un po' di cose, ma insomma non è così riuscito. Ma in queste tavole il pensiero umanistico ritiene che attraverso un giusto equilibrio l'uomo possa esprimere meglio il proprio comportamento. E attraverso l'armonia delle forme e delle proporzioni, tutte le sezioni auree per cui gli edifici devono essere fatti con un certo equilibrio geometrico e via dicendo, l'uomo avrebbe avuto un comportamento migliore. Come a dire che se in teatro una scenografia può permettere all'attore di recitare meglio, in una città fatta bene, ogni cittadino può recitare meglio la propria parte. E noi ne siamo consapevoli moltissimo anche oggi. Ci sono parti di città che, perché sono fatte bene, curate bene, tenute bene, amministrate bene, funzionano e i cittadini si comportano bene. E parti di città dimenticate dove permettiamo qualsiasi cosa. Andiamo avanti. Ma nel teatro, se voi fate mente locale, di fronte a un teatro classico, la parte che lo chiude, la scena fissa, è la famosa scena fronte. E se io vi faccio vedere questa immagine, non è la stessa cosa più o meno. Questo è Palladio, Teatro Olimpico di Vicenza, la scena fronte fissa, e lo Scamozzi, perché Palladio nel frattempo è morto e non ha avuto il tempo di pensare alle prospettive, alle scenografie che ci sono dietro, ci racconta che dietro a questa scena fronte in realtà c'è una città. E questa cosa ci dice la stessa cosa, Colle Valdelsa, tra Monteriggioni e San Gimignano. Questa via che vedete davanti collega le due parti del borgo, e questa scena fronte ci racconta di entrare dentro alla città. Cosa vuol dire? Che la città mette insieme una serie di cose, fatti, emozioni, impressioni, tutto quello che volete, cose, e ci invita a mischiarle. Il nostro cervello, per funzionare bene, la famosa creatività di cui sentiamo spesso parlare, non è un dono divino che viene dato a qualcuno e a qualcuno no. Il dono divino dell'altezza è così. Io non ce l'ho e qualcuno è molto alto come Sinner. Io avrei voluto essere come Sinner, ma non lo sono. E anche se mi tirassi all'infinito, non riuscirei mai a essere alto come lui. Ma la creatività non è così. È una funzione del cervello che ci permette di mischiare le cose che noi assumiamo, sensazioni, elementi, curiosità, fatti, e mischiandoli in maniera diversa possiamo combinarli per ottenere altre soluzioni. Perché una delle cose che dobbiamo capire fin da subito è che il nostro cervello non si è strutturato o evoluto per rispondere in maniera uguale ai fatti che avvengono nella vita. Noi non siamo stati programmati prima, i computer sono programmati prima e sanno esattamente cosa devono fare se accade questo e sanno esattamente cosa devono fare se accade quell'altro. Gli animali hanno degli istinti naturali, noi abbiamo un cervello che semplicemente è programmato per gestire miliardi di informazioni, di memorie, di fatti, di esperienze vissute, per dare risposte valide a quell'evento che capita. Ma a noi tutti sarà capitato, almeno qualche volta nella vita, di aver avuto tre situazioni da affrontare nel lavoro, nella vita normale, vi dicendo, in cui abbiamo dato una volta una risposta e ci è andata bene, la seconda volta la stessa risposta e ci è andata bene, la terza volta non ci è andata bene. Eppure abbiamo usato la stessa risposta. Perché non va bene? Perché nella nostra vita non sempre tutto è così uguale. Ed è l'altro elemento che facciamo spesso fatica a comprendere, che è la complessità. In un processo complesso come quello degli esseri viventi, basta una piccolissima differenza che qualche volta non si vede. Non si vede. Io che sono architetto e che lavorando in un ambito edile, 5 centimetri in più o 5 centimetri in meno non fanno grande differenza spesso e volentieri. Mio figlio, che è ingegnere meccanico, che lavora sui micron, gli darebbe fastidio sbagliare di 5 centimetri un pezzo meccanico, perché non entra più il pistone o roba di questo genere, no? La sospensione non funziona più. Ma nella vita, che è complessa, vuol dire che una piccola variazione all'inizio di un processo complesso porta alla fine del processo a una grandissima variazione. E questo noi spesso non ci facciamo caso, la vita è complessa, cioè il famosa battuta del più grande matematico del secolo scorso, che è colui che poi imposta gli algoritmi per le previsioni del tempo, Lorenz, a un certo punto fa la famosa battuta che attribuiscono a lui, e non si sa bene se è così, che un battito d'ali di farfalle in Brasile scatenava un uragano negli Stati Uniti, e noi diciamo una sciocchezza. Ma lui voleva semplicemente dire che una piccolissima differenza in un certo posto, alla fine del processo, visto che le onde, i climi, i venti girano, le correnti marine girano e girano per i vari continenti e vi dicendo, se in questo processo iniziale succede anche una piccola differenza, alla fine del processo possiamo avere qualcosa di infinitamente più grande. Però non sono ancora contento di come ve l'ho raccontata. Perché per potervi dire come io interpreto il concetto che la città è teatro, vi mostro questo quadro. È un quadro molto famoso di un artista americano, Edward Hopper, dei primi del Novecento, in un tempo in cui quello che funzionava in arte erano le avanguardie. I grandi pittori di quel periodo lì che noi ricordiamo è Picasso, Mondrian, figurativo puro, manco uno. Lui è l'unico figurativo che avrà grandissimo successo. Che cosa ci racconta? A me delle interpretazioni psicologiche e via dicendo, la solitudine di questi personaggi, mi interessa poco. Quello che Edward Hopper ci rappresenta, e secondo me è paradigmatico di quello che io voglio dirvi, è che ci fa vedere una città americana di notte, non c'è nemmeno una luce accesa, escluso che la vetrina di questo dinner, un bar-ristorante veloce. Ed è non solo una vetrina, è un palcoscenico super illuminato come avviene proprio a teatro. Cioè il palco si illumina e la sala si spegne. La città si spegne, non c'è un'anima viva in giro, non c'è una finestra accesa, ma questo dinner è super illuminato. Sta di fatto che la luce esce abbondantemente anche sulla strada. E lui ferma un momento della vita di quattro personaggi. Perché di notte, al buio dove non c'è nessuno, tre avventori entrano in un locale e c'è il gestore del locale che fornisce a loro qualche cosa. Chi sono quei tre avventori? Quell'uomo e quella donna si conoscono, sono andati assieme, non sono andati. E il terzo chi è? Li sta guardando, li conosce anche lui? Quello che fa Hopper, e lo fa in moltissimi suoi quadri, è darci l'immagine ferma un momento della vita di alcune persone in un determinato momento. E quello che ci dice è, siete voi osservatori che dovete andare avanti con la scena. Io vi do un determinato momento, l'ho fermata lì, ma il resto potete costruirvela voi. Come andrà a finire questa cosa? Perché quei tre avventori sono entrati dentro, invece di andarsene a casa, decidetelo voi. E ognuno di noi si racconterà una sua storia. Ma questo che cosa ci fa capire, ed è quello che io cerco di mettere in evidenza anche con la frase che verrà dopo. Il quadro del 42 si chiama I Nottambuli. Sarà gente che non sapeva dormire, non lo so. Quello che ci viene a raccontare Hopper in questo quadro è che in una città quello che conta è la relazione tra attori e spettatori. Tutti noi qualche volta siamo attori e qualche volta siamo spettatori. Ed è in questa relazione che si costituisce il teatro. Il teatro esiste nel momento in cui ci sono attori e spettatori. Perché voi potreste avere il più grande spettacolo del mondo, ma se non c'è nemmeno uno spettatore, quell'evento non esiste. E se per caso fosse il più grande evento del mondo, ma noi tutti, cioè noi che siamo spettatori, ci mettessimo a tossire, ad alzarci, a guardare il telefonino, a muoverci, lo capirebbero anche loro e cambierebbero l'interpretazione. Nella nostra vita, tutti i giorni, noi siamo influenzati da questa relazione. E questo è uno degli elementi della meccanica del teatro che noi quotidianamente viviamo. Siamo sicuri che le cose che facciamo dipendono soltanto da noi? Nella maniera più assoluta non è possibile. Tutti noi siamo condizionati costantemente da questo continuo flusso di relazione che c'è tra attori e spettatori. E noi tutti siamo qualche volta attori e qualche volta spettatori, che hanno una funzione fondamentale, non semplicemente quella di applaudire alla fine dello spettacolo, ma quello di percepire una serie di cose che avvengono all'interno dello spettacolo. Uno dei più grandi innovatori del teatro, Jerzy Grotowski, un polacco che negli anni 60 inventa il teatro povero, dice questa cosa: eliminando gradualmente tutto ciò che si dimostrava superfluo, scoprimo che il teatro può esistere senza cerone, senza costumi e scenografie decorative, senza una zona separata di rappresentazione, il palcoscenico, senza effetti sonori e di luci. Non può invece esistere senza un rapporto diretto e palpabile, una comunicazione di vita tra l'attore e lo spettatore. Se il teatro, dunque, si viene a costituire nella comunione di intenti tra attori e spettatori, allora a teatro, come nella vita, nessuno può fare niente da solo e ognuno è il prodotto della relazione con l'altro. Non solo. Per collegarmi al sottotitolo, il nostro cervello si è evoluto così. Noi abbiamo dentro a questa scatola cranica forse l'organismo più complesso dell'universo. In 140 centimetri cubici, quindi poca cosa, abbiamo 80 miliardi di neuroni collegati da 100.000 miliardi, faccio fatica a dirlo, 100.000 miliardi di connessioni, le sinapsi. Quindi capite che connessioni ci sono e avvengono, ma la cosa più straordinaria non è, e ce lo dicono tutti i neuroscienziati, non è come funziona il nostro cervello, ma come i nostri cervelli riescono a lavorare assieme. È questa la cosa straordinaria. E se voi ci fate mente locale, tutte le più grandi scoperte dell'umanità, tutte le più grandi ricerche scientifiche che noi attribuiamo facilmente a un qualche genio, Einstein, chi volete voi, se andiamo a scartabellare bene, lui è stato l'ultimo di una catena di persone che ognuno ha aggiunto un pezzettino. Einstein, senza il lavoro di Poincaré, non avrebbe fatto nulla neanche lui. Poi Poincaré è arrivato a un certo punto, poi si è esaurito, ha detto vai avanti tu che a me viene da ridere. No? E non voglio dire che non siano dei geni, perché anche capire che cosa serve per andare avanti non è proprio così facile, ma nessuno di noi può lavorare da solo e i nostri cervelli danno il meglio di loro quando lavorano assieme. E questa è un'affermazione che mi fa dire che invece oggi noi tendiamo esattamente all'opposto, a lavorare molto da soli, pensando di fare meglio. Io ero, e chi mi conosce lo sa, qualche anno fa un architetto che aveva anche degli incarichi molto importanti e che tendevo spesso a volerli fare e a dirigere molto da solo. Qualche anno dopo, relazionandomi meglio con i collaboratori e con gli altri tecnici che partecipavano al progetto, i miei progetti sono migliorati notevolmente. Il nostro lavoro migliora quando noi lavoriamo insieme agli altri. Ma questo sembra non essere più così facile da capire. La prima parte è finita e adesso incominciamo la seconda, che... Madonna, sto computer però ha una capacità di stare acceso poco o nulla. Perché? Eccolo qua. Madonna, che cosa c'hai te, bello? Oh, Madonna. Ma noi lo leggiamo però. Voi lo leggete, ma io devo leggere... qualche cosa qua ogni tanto mi dà sicurezza. Ah, Madonna, vabbè, proveremo a farne anche a meno. Sì, ma il teatro è vita. E come dicevo prima, tutti noi pensiamo che sia partito 2500 anni fa in Grecia con Eschilo, Sofocle, Euripide, chi più ne ha più ne metta. Il nostro teatro tradizionale che conosciamo oggi è partito così, ma in realtà è partito molto prima. La natura aveva deciso che la vita fosse al tempo stesso molto preziosa e molto precaria, difficilissima. Se vi faccio vedere questa immagine, è un villaggio... una fotografia recente di un villaggio Yanomami, di una popolazione primitiva che sta tra il Venezuela e l'Amazzonia, tra il Venezuela e il Brasile. E io penso che i villaggi di 20.000 anni fa, 30.000 anni fa, non fossero molto diversi. Che cosa c'ha di particolare questo villaggio? Che le capanne sono capanne sui generis, non molto chiuse, sono solo dei tetti. In realtà all'interno lasciano uno spazio circolare aperto. Dentro quello spazio circolare, che è l'embrione, se volete, delle nostre attuali piazze, nascerà qualcosa di molto importante, ma nascerà qualcosa di molto importante anche nelle grotte. Questa è la grotta di Chauvet, una delle tre grandissime grotte dove si sono trovate delle raffigurazioni incise, disegnate, dipinte sulla roccia. Qualcuno, soprattutto nella grotta di Lescaut, sempre in Francia, poi c'è Altamira in Spagna, poi ce ne sono altre in tutto il mondo, ma queste sono le tre più famose e più straordinarie, uomini che hanno 40.000 anni, queste grotte vengono datate e questi disegni 40.000 anni, altro che Leonardo da Vinci e Michelangelo, erano degli artisti straordinari senza niente, perché questi scendevano anche fino a 200 metri dentro la montagna. Non avevano percorsi in sicurezza, non avevano cordini per tenersi, avevano delle fiammelle che li illuminavano appena appena, no? E noi sentiamo dire spesso e volentieri che Lescaut è la Cappella Sistina del Paleolitico, la più grande sciocchezza mai detta. Ma per quale ragione degli uomini che si alzavano la mattina 50.000 anni fa e non avevano il supermercato di fronte per andare a prendere qualcosa da mangiare e qualche volta ci volevano giorni per recuperare qualcosa da mangiare, avrebbero dovuto avere il tempo e la voglia di mettersi a dipingere animali, scene, via dicendo, molto ricche, molto importanti, 200 metri anche sottoterra con delle fiammelle che ti facevano vedere e non vedere, per decorare delle grotte in cui nemmeno ci vivevano. Questa è la cosa straordinaria. Non ci vivevano nemmeno in quelle grotte. E perché allora? Perché viviamo in un tempo, 40-50.000 anni fa, in cui questi erano cacciatori. E come si fa a cacciare un animale in cui non c'è la distinzione che facciamo noi oggi. Noi, Homo sapiens, tu animale, io a te te posso uccidere, tu a me manco per niente. No, era esattamente l'opposto. Ogni giorno c'era un uomo che finiva come pasto di qualche animale. E soprattutto c'era una concezione animistica in cui ogni essere vivente aveva un'anima e io uno spirito, e io dovevo stare molto attento a come trattavo quello spirito, perché si sarebbe potuto ribellare alle mie azioni. Ogni giorno succedeva che un gruppo di cacciatori tornasse senza caccia, va bene, ma non portandosi più dietro 2 o 3 persone del villaggio perché erano stati uccisi dagli animali, dalle prede, dicendo che si volevano predare, ma erano stati predati loro. Questi uomini quindi incominciano a disegnare queste scene. E quindi immaginatevele, queste scene poi sono in uno stato alterato di coscienza, perché a forza di far girare il cervello, suonando, urlando, emettendo dei suoni, dei vocalizzi, battendo i piedi, in una grotta in Germania qualche anno fa è stato trovato un osso, una tibia forata e diventa un flauto. Questi suonavano dentro in queste grotte. In queste grotte, nel momento in cui io illumino con queste fiammelle che muovendosi mettono in movimento queste scene. Il rumore delle percussioni, dei flauti, delle voci che dentro queste grotte rimbombano in una maniera impressionante, loro cercavano di ricostruire lo spirito e di entrare nello spirito di questi animali per poterci entrare in relazione e quindi poterli cacciare senza avere dei rischi ulteriori. Queste sono delle prime forme, chiamiamole teatrali, in cui loro cercano anche di imitare l'animale. Loro iniziano a imitare gli animali per percepirne gli spiriti, per capirne quali sono le caratteristiche di un predatore. Vogliono entrare in possesso delle caratteristiche di un predatore per poterlo predare. E quindi questi elementi non sono banalmente delle raffigurazioni che facevano perché volevano decorare una grotta, come noi abbiamo fatto con la Cappella Sistina, perché il Papa voleva far vedere quanto era potente, chiamava i grandi pittori dell'epoca, li strapagava. Ricordatevi sempre che Michelangelo era l'artista più ricco del tempo di allora, era tirchio incredibilmente tantissimo, ma era il più ricco, era ricchissimo Michelangelo. Poi c'era suo padre che gli mangiava un po' di soldi e via dicendo, insomma. E quindi erano pagati molto bene per decorare delle chiese, delle case, via dicendo, perché questi mecenati volevano rappresentare attraverso quelle opere il loro potere. Ma qui non c'erano regnanti che volevano rappresentare il loro potere. Quando iniziarono ad arrivare, costruirono altri tipi di cose, no? Cioè gli egiziani lasciarono le piramidi, non lasciarono, sì, anche loro pitture, per carità, ma insomma i veri segni degli egiziani sono i grandi templi. E quindi si torna in gioco di nuovo l'architettura, no? Come elemento anche simbolico e vi dicendo. Questa prima forma di teatro, che noi possiamo anche assimilare alle ombre cinesi, al teatro delle ombre, in cui loro in qualche maniera cercano di recuperare lo spirito di questi animali per poterli cacciare, ci portano a dire cosa poi? Che dentro quello spiazzo di prima, che vi ho fatto vedere in quel villaggio di oggi, ma che poteva essere molto simile a quello di 20 o 30 mila anni fa, dopo la caccia, ma anche prima della caccia, probabilmente, si riunivano prima per mettersi d'accordo di come fare a cacciare. Perché è facile dire andiamo a cacciare un mammut, è infinitamente più grande di noi, se non siamo sincronizzati bene il mammut ci stermina tutti, per cui dobbiamo sapere esattamente che cosa fai tu, cosa fa lei, cosa faccio io e quando ognuno di noi entra in gioco e in scena. Quindi prima si dovevano organizzare e dopo, la sera, quando tutto era andato bene, se la raccontavano e ognuno di loro raccontava a modo proprio com'era andata. E a forza di raccontarsela, di aggiungere qualche particolare, di toglierne qualcuno, poi quando la raccontavano diventavano tutti eroi, tutti più forti, vi dicendo ho fatto così, io sono stato il più bravo, tu mi hai dato sì una mano, ma se non c'ero io chissà che cosa facevi, vi dicendo, che cosa hanno fatto? Hanno iniziato a mettere in moto quello che è la più grande e straordinaria funzione del nostro cervello, cioè il cervello narrativo. Il nostro cervello si racconta delle storie e si racconta delle storie in continuazione. E un po' servono per creare empatia, simpatia con gli altri, fiducia e quindi poter andare a cacciare sapendo che tu farai esattamente quella cosa che ci siamo messi d'accordo prima, perché a forza di raccontarcele e di aver condiviso una serie di cose, poi quando ballavano e quindi facevano le loro danze intorno al fuoco, era un modo per sincronizzare proprio i cervelli. Non avevano gli orologi, non avevano una serie di programmazioni che abbiamo noi oggi, serviva per mettere a posto, sincronizzare i propri cervelli. Ma dall'altro lato, noi siamo l'unica specie tra i grandi mammiferi che può organizzarsi in migliaia, in migliaia, in migliaia di persone. Qualsiasi altra specie animale, sto parlando di mammiferi, non sto parlando né di api né di formiche, via dicendo, arrivati a un certo numero, si forma un altro maschio alfa, separa la parte del gruppo e i due gruppi vivranno separatamente. Non c'è nessun gruppo animale di mammiferi che arriva come noi a organizzarsi in milioni di persone. E io racconto sempre questa vicenda della grande avventura di Alessandro Magno, che è così bravo a raccontare la storia. Ho sognato di andare a conquistare noi, piccolo staterello della Macedonia, siamo in 30.000, ma andremo a conquistare il più grande impero del tempo, l'impero di Dario della Persia, che ha un esercito da 300.000 soldati, 1 a 10, e noi li conquisteremo. I suoi generali si convincono e loro conquistano Persia e sconfiggono Dario. Poi lui racconterà un'altra storia ai suoi generali, che però non lo ascolteranno più, perché non sarà così convincente, che è quella di andare oltre il mondo conosciuto. Noi dobbiamo andare oltre l'Eufrate, oltre il Tigri, per vedere che cosa c'è di là. E lì non lo seguiranno, e allora ci andrà solo lui a fare un giro e gli altri generali rimarranno a fare bagordi nella capitale della Persia. Questo per dire che il cervello narrativo serve a noi per organizzare in grandissimi gruppi. E tutto quello che in questi millenni ci siamo fatti, le società per azioni, noi mettiamo dei soldi e ci fidiamo che siano delle cose serie, perché ce le siamo raccontate bene. Poi se uno va a scavare bene, si accorge che forse sotto la sabbia c'è qualcosa che non funziona proprio così bene, no? Però questo sarebbe un discorso infinitamente più grande da fare. Però pensate anche quando il vescovo Fulgenzio di Chartres convince i suoi concittadini a costruire la più grande cattedrale gotica dell'epoca. Hanno una chiesa nel paese, nella cittadina. Ma come fai tu a convincere migliaia di persone che un giorno alla settimana dovranno lavorare per te, gratis, perché, e dovranno pure metterci dei soldi perché la chiesa viene costruita con i soldi della comunità. Bisogna essere bravissimi. Se oggi il nostro sindaco ci dicesse, cari signori, devo fare il nuovo palazzo, la nuova scuola, però ognuno di voi mi dà una giornata, il sabato, la domenica, viene qui a fare il muratore, ci mettete un po' di soldi, noi andremo là e lo prenderemo a forconi, a forconate nel sedere. A quel tempo ci riuscivano perché la narrazione era straordinaria. Anche oggi molte narrazioni ci convincono che possiamo fare delle cose, non sempre ci convincono delle cose giuste. Perché ritorno qua? Perché in tutto questo elemento teatrale, anche se è un teatro primitivo, quindi se volete il termine non è corretto, ma contengono già gli elementi che troveremo poi nel teatro successivo. Perché questi signori, quando scoprono di avere dolori fortissimi perché metà della tribù non è tornata dopo una caccia che è andata male, sono dolori fortissimi, ma anche quando hanno gioie fortissime. E come fanno per provare a controllare questi dolori e queste gioie? Si inventano dei riti. attraverso danze, musiche, suoni, racconti, che è appunto il rito del teatro. Tuttora il teatro si chiama rito, perché ha una sua ritualità che arriva da quel mondo lontano lì. Io devo saper fare affinché accada qualcosa. E qui viene fuori la seconda meccanica del teatro. Che cosa deve accadere? Deve accadere che io senta delle emozioni. Il teatro funziona se mi mette dentro qualche emozione, che magari non capisco immediatamente, ma me ne accorgerò un po' dopo. E a che cosa servono le emozioni? Che gli ultimi studi ci dicono che in misura minore hanno anche altre specie di mammiferi, ma che noi abbiamo in maniera molto forte. E la razionalità di oggi spesso ci dice dobbiamo essere uomini razionali, dobbiamo lasciare fuori le emozioni. Il più grande neuroscienziato vivente, probabilmente, Antonio Damasio, che però è un portoghese che lavora da sempre in America, racconta un episodio straordinario. Un avvocato che viene qualche anno fa operato di tumore al cervello. Tumore benigno, l'operazione va benissimo, lui non ha, sembra, i medici, i chirurghi, tutte le analisi dicono che non hanno toccato niente. Cammina perfettamente, parla perfettamente, ha tutte le funzioni a posto. Il suo problema è che ogni 6 mesi cambia lavoro perché lo licenziano e gli dicono che è bravissimo, se vogliono gli lasceranno una lettera di referenze, ma non possono tenerlo. E lui dopo 2 anni si dispera. Inizia a fare una serie di esami e tutti i medici da cui va gli dicono ma lei non ha nulla, abbiamo fatto tutti gli esami, lei non ha nulla. E lui si dispera perché ogni 6 mesi lo licenziano. Arriva da Damasio, che è appunto il più grande neuroscienziato vivente, che gli fa anche lui tutti gli esami e nel libro scrive, in questo straordinario libro L'errore di Cartesio, stavo per mandarlo via dicendogli lei non ha nulla. Perché da tutte le analisi fatte non veniva evidenziato assolutamente nulla. Poi, prima di dirgli questo, decide di prendersi 2 ore di tempo e parlare del più e del meno con questo signore. Cosa che non credo che avvenga più ormai in un ambito medico nostro. 2 ore di tempo così non te lo fanno più neanche a pagamento. E in quelle 2 ore chiacchiera del più e del meno. E che cosa percepisce? Che è una persona colta, razionale, ma è fredda, distaccata. Gli hanno toccato una parte del cervello destinata alle emozioni. Lui non ha più emozioni, non le ha più così forti. E che cosa significa questo? Che ogni volta che lui preparava una pratica legale, era in grado di farne un'analisi perfetta, metteva in fila tutti gli elementi a favore del cliente e tutti gli elementi contro, ma non riusciva più a dargli la priorità. Nella nostra vita le priorità le diamo con le emozioni. Non c'è un altro modo per noi di dare priorità alla nostra vita, di organizzarla in termini di priorità. Cosa viene prima e cosa viene dopo? Nel mio ufficio è capitato alcune volte che un collaboratore che aveva lavorato sempre bene, a un certo punto non lavora più bene. Lo vedi distratto, continua a fare errori, allora lo chiamo. Mi è capitato un paio di volte, gli ho chiesto cosa c'è che non va. E questo mi ha detto, mi sono innamorato. E non capisco più niente, me ne rendo conto. Mi ha detto, me ne rendo conto. E io gli ho detto, se vuoi continuare a lavorare qua, o la risolvi presto, o te ne vai. Perché quando noi abbiamo qualcosa che ci coinvolge tantissimo, tutta la nostra attenzione si posa lì. E noi, nella nostra vita, come nel lavoro, le scelte, io come architetto, quando ho più ipotesi da perseguire, l'unica scelta che faccio, dopo aver esaminato gli aspetti razionali, in termini di costi, di funzionalità, di materiali, di soddisfazione del cliente, tutto quello che volete, però la scelta finale la faccio, quel progetto mi piace, quello mi piace meno. Perché? Non lo so. Però quello mi emoziona, mi dice qualcosa, quell'altro mi dice qualcosa di meno. Allora le emozioni sono importantissime e nel teatro greco non solo ci mettono dentro le emozioni e le tragedie greche sono piene di emozioni fortissime, ma ci dicono anche che nel comprenderle noi possiamo trovare la soluzione attraverso la catarsi, il miglioramento e via dicendo. C'è sempre una possibile soluzione, perché proprio questo cervello narrativo che cosa ci dice in realtà? La narrazione che cos'è? Che cos'ha? Un inizio, l'inizio della narrazione, uno svolgimento e una fine. Qualsiasi cosa, anche la più dolorosa, ha sempre una fine. E se io me ne faccio una ragione, evidentemente riesco anche a non soffrire più così tanto, perché ogni cosa della nostra vita ha un inizio, uno svolgimento e una fine. E questo è stato il grande insegnamento che ci dà il teatro tradizionale, ma che ci dà il teatro della vita. A questo serve il teatro, o meglio il teatro della vita, mettere in gioco l'emozione, nel senso che la nostra mente, oltre a riconoscere e a definire gli oggetti che incontra, ne determina anche un valore affettivo, attribuendo un peso emotivo a ogni elemento percepito. E questo meccanismo gli permette di organizzare ed assemblare diversamente gli argomenti che la vita ci pone davanti. Noi non siamo in grado di organizzare la nostra vita se non attraverso una serie di emozioni. Se noi perdessimo le emozioni, infatti, guardate, ce l'avranno anche loro alcune emozioni, ci mancherebbe. Ma il leone cosa fa? Si sveglia la mattina, si mette al sole, passa la gazzella e c'ha fame, gli corre dietro, quando la pancia piena si rimette al sole, quando arriva la stagione degli amori e vede la leonessa, gli corre dietro, poi si rimette al sole che passi la giornata. Noi ci occupiamo di cose che non c'entrano nulla né con la sopravvivenza né con la riproduzione. Per questo siamo degli animali diversi e infinitamente pericolosi. La terza parte, che è anche la più difficile, e però cerco di semplificarla perché forse mi sono anche un po' allungato. Tutto quanto detto finora si basa su una concezione sistemica della vita, che vuol dire che in realtà la complessità della vita, se vogliamo tradurla in un grafico, è una rete, ha una serie di nodi dove ci sono una serie di elementi e questi sono collegati tra di loro. Mentre per noi, spesso e volentieri, per comprendere le cose, le analizziamo singolarmente e pensiamo che se noi risolviamo un problema qui, automaticamente si risolverà anche lì, perché abbiamo una concezione lineare della soluzione. Tutta la nostra cultura scientifica del 700, 800 è stata una cultura lineare, no? Io analizzo un problema e se ti risolvo il problema al pancreas, faccio un esempio banale, avrò risolto il problema. Damasio, in questo straordinario libro che consiglio a tutti di leggere, se non l'avete già letto, L'errore di Cartesio, ci racconta, non capisco come facciano i medici tutt'oggi, l'ha scritto un po' di anni fa, ma insomma non tanti anni fa, come facciano a laurearsi avendo per lo più fatto un solo esame di psicologia. Come fanno a comprendere la vita umana se non sanno nulla della testa delle persone, della mente delle persone, della psiche delle persone? Possiamo curare qualcuno con dei farmaci se non curiamo anche la testa del paziente? Impossibile. Infatti oggi anche la medicina sta cercando di mettere in rete molte più di queste cose perché si è resa conto che solo andando in maniera lineare le soluzioni non erano così efficaci. La mente non è una cosa o un organo, l'organo è il cervello, ma la mente mette in gioco il corpo. Spesso e volentieri noi ragioniamo, si dice, di pancia, e non è una sciocchezza. Qualcuno in America, in particolare questo scienziato pazzo che viene strapagato, che si chiama Kurzweil, viene strapagato da Google e da altre società del web, pensa di poter prendere il cervello umano e metterlo dentro un computer, così la vita sarà infinita e non avremo più problemi con questo corpo che invece invecchia e a un certo punto ci lascia e conseguentemente anche il cervello ci lascia. Ma la mente non è soltanto funzione del cervello, è funzione del corpo che è collegato al cervello ed è funzione del contesto. La nostra mente non si forma da sola, ma si forma in relazione con il contesto, che è ambientale, che è sociale, che è culturale, e il contesto ci cambia la testa. Quindi ogni cosa a cui noi ci sottoponiamo cambiamo costantemente la nostra testa. Che cosa fa il teatro, ad esempio? Ci fa riconoscere cose che noi abbiamo dentro ma che non riconosciamo. Tutte quelle passioni di cui dicevo prima, tutte quelle emozioni, quei sentimenti, l'odio, la gelosia, tutto quello, l'invidia, tutto quello che volete, noi lo conteniamo tutto dentro di noi, ma per conoscerlo dobbiamo vederlo espresso in qualche altra parte. Il teatro ci mette in evidenza tutte queste cose e nel momento in cui noi siamo a distanza e possiamo vederle, le riconosciamo anche dentro di noi. E qual è la meccanica principale del teatro per cui abbiamo detto all'inizio? La relazione con l'altro, le emozioni. Le altre due meccaniche fondamentali nel teatro, ma nel teatro della vita, sono l'imitazione e sono il dialogo. Cosa fa il teatro? Nel momento in cui io guardo, attivo i neuroni specchio, i famosi neuroni specchio, peraltro scoperti da un gruppo di scienziati italiano, quindi è un vanto nostro. Gli americani per molto tempo hanno cercato di abbassarne il valore e secondo me per semplice gelosia. Non l'hanno scoperto loro e quindi gli stava sulle palle. E siccome noi non siamo una nazione che spende molto in ricerca, non venivamo considerati all'altezza di poter... Infatti, se voi guardate tutti i medici italiani che hanno vinto un premio Nobel, dalla Montalcini a Dulbecco, vi dicendo, hanno sempre lavorato solo in America. Questa è una ricerca fatta in Italia, a Parma, finanziata dall'Italia, che ha avuto un successo straordinario. Metà dei neuroscienziati la considerano la più grande ricerca in ambito neuroscientifico del secolo scorso. Viene scoperta nel 92, quindi. Che cosa fanno i neuroni specchio? Sono quelle cellule neuronali, cerebrali, che si attivano quando noi compiamo un movimento o vediamo un altro compiere un movimento. A teatro noi vediamo persone che compiono movimenti contemporaneamente. Rizzolati, che è il capo della ricerca, ritiene che questo meccanismo abbia favorito anche l'insorgere del linguaggio parlato complesso. Anche prima parlavamo, ma il linguaggio parlato complesso circa, dicono gli scienziati, sorge 50.000 anni fa con la rivoluzione cognitiva attribuita al raffinamento dei neuroni specchio. Quando noi vediamo qualcuno compiere un'azione, automaticamente siamo portati a imitarlo. Noi, e l'ho detto prima parlando di genetica, la vita sulla Terra è tutta imitazione. Noi nasciamo dove i nostri genitori mettono nel cassetto un po' di cellule gli uni e un po' di cellule l'altro, e queste due cellule mediamente si mischiano ma vengono copiate uguali. Poi qualche volta c'è una modifica per un errore di copiatura o perché c'è qualche evento ambientale esterno, ad esempio se siamo sottoposti a dei raggi e vi dicendo elettromagnetici o di altro tipo possono cambiare queste cellule, ma è sempre un problema di copiatura. Quindi noi copiamo. E tutto il nostro apprendere avviene per imitazione e copiatura. Io sarò un bravo architetto se ho avuto un grande maestro. Un grande medico sarà un grande medico se ha avuto un grande maestro. Se ha copiato, se ha imitato un grande maestro. Se lo dice uno dei grandi filosofi italiani, Carlo Sini, che il teatro è fondamentale perché è finzione, ma non nel senso negativo del termine, nel senso che noi fingiamo di essere un re, ma perché ogni volta noi ci plasmiamo diversamente. Ogni volta riadattiamo non solo la nostra postura, il nostro comportamento, ma il nostro cervello. Il nostro cervello ogni giorno è diverso. Se noi potessimo farne un'immagine ogni giorno, e ogni giorno per noi fosse ricco di incontri, di eventi, di conoscenza, di curiosità, il nostro cervello sarebbe diverso dal giorno prima. E un grandissimo scrittore americano morto di recente, ce lo dice anche lui. Per ora sono ancora Peter Stillman, non è il mio vero nome, non saprei dire chi sarò domani, tutti i giorni sono nuovo e ogni giorno rinasco. Se non l'avete letto, trilogia di New York di Paul Auster, che è morto l'anno scorso. Grande scrittore, ma mette in evidenza, e alcuni neuroscienziati ci dicono che in realtà è per una questione sociale, di relazione, che noi manteniamo, cerchiamo di mantenere le nostre caratteristiche, perché il nostro cervello si modifica rapidamente e così tanto che noi potremmo non essere riconosciuti. Poi siamo riconosciuti perché non cambiamo i caratteri somatici, siamo riconosciuti perché il carattere è meno facile da modificare, alcuni atti del comportamento sono più difficili da modificare, ma dal punto di vista del pensiero, e io trovo scioccante che noi siamo ancora ancorati ad esempio alla famosa coerenza, no? Uno è comunista 2400 anni fa e per coerenza dovrebbe essere comunista ancora oggi. Nel frattempo ha imparato migliaia di cose, magari è diventato qualcos'altro, voglio dire, no? Per cui la coerenza è qualcosa che non sta nella nostra natura umana. Noi possiamo avere coerenza nei comportamenti, ma estrema flessibilità, e ce lo dicono i grandi studi antropologici, noi siamo sopravvissuti perché siamo una specie estremamente flessibile. Ci adattiamo, ci modelliamo ogni giorno a seconda di come cambia il contesto. E siccome il contesto oggi cambia molto rapidamente, noi dobbiamo essere molto flessibili a cambiare. E invece io vedo che anche le politiche che fanno i nostri amministratori, vi dicendo, sono sempre le stesse. Io sento soluzioni anche in ambito urbano, ne so, sul traffico, sento le stesse soluzioni da 40 anni, ma è possibile che in 40 anni non è cambiato nulla? Abbiamo ancora le stesse idee, gli stessi semafori, che sono stupidi, non sono intelligenti. Poi uno va a vedere, in Corea ci sono i semafori intelligenti, vuol dire che danno il verde, il rosso, il giallo in funzione di quanti pedoni sono fermi sulle zebre e di quante macchine ci sono, non in base a temporalità astratte, no? Per cui l'altro giorno attraversavo le zebre, vicino a me c'era una signora col carrettino, quelli per non perdere l'equilibrio, è passato il giallo, è arrivato il rosso e noi eravamo a metà della strada. Le macchine sono partite e io, sta signora, perché non mi sono fidato a lasciarla da sola, eravamo in mezzo alla strada. Ma si può programmare dei semafori? Chi è che abita le città? Sono i cittadini o sono le macchine? I semafori per i pedoni dovrebbero durare 3 volte di più del tempo per le macchine. No, noi facciamo correre le macchine, i cittadini statevene a casa. Ah, grazie. Questo poteva avvenire il secolo scorso, perché la nostra società, la mia generazione, di cui qui vedo molti amici e colleghi che hanno più o meno la mia età, è nata ed è cresciuta con questi miti. Il mito, ad esempio, della macchina in cui se oggi tu togli per caso la macchina qualcuno subito si offende, e però la macchina fino a 100 anni fa non c'era e tra poco non ci sarà più di nuovo, perché se noi riempiamo il mondo di macchine, mi domando dove stiamo noi. Siamo già 8 miliardi, se ogni cittadino vuole una macchina, 8 miliardi di macchine, mi dite dove andiamo a prendere il terreno per tutto sto popò di roba che facciamo girare? Vabbè, questo è un altro discorso. Però, e qui chiudo, no, sono andato indietro invece che andare avanti. Tutto quello che abbiamo visto o che ho tentato di spiegarvi oggi, ovviamente l'argomento è molto complesso ed è tutto collegato, la città è collegata al teatro, è collegata al nostro cervello, e il teatro è un meccanismo che ci serve per, se vogliamo metterla giù banale, per evolvere, per migliorare il nostro pensiero. E questo processo porta la città, questo processo, diciamo così, in cui abbiamo visto quali sono i meccanismi, la relazione, l'emozione, l'imitazione, che attraverso l'imitazione impariamo i mestieri. Avete mai visto un falegname che impara da un architetto? No. Un falegname impara a fare il suo mestiere bene da un altro falegname bravo. Se io gli insegnassi il mio mestiere, lui diventerebbe un architetto, non un falegname. dove mettere in gioco non la finzione, ma la verità, perché a forza di plasmarci, noi non solo ci costruiamo un personaggio ogni giorno diverso, e noi siamo un personaggio diverso anche nelle varie funzioni che svolgiamo in una giornata. Se io svolgo la mia funzione da presidente di casa di riposo ho un atteggiamento, quando faccio l'architetto ne ho un altro, a casa ne ho un altro ancora, e me lo dicono spesso e volentieri, come sei diverso. Ma sono i ruoli che ci fanno adottare un certo comportamento. Non posso avere sempre lo stesso ruolo, perché i ruoli, come le parti a teatro, richiedono una certa recitazione, che non vuol dire che è finzione, ma vuol dire che avrò un atteggiamento diverso. L'insegnante o il medico, quando entra in ospedale e si mette il camice, è lo stesso di quando è a casa? Quante volte mi sono sentito dire: quel medico in ospedale è un grandissimo stronzo, se poi ci vai a cena assieme è simpaticissimo. Così architetti, ingegneri, tutto quello che volete. Ma perché hanno interpretato in maniera diversa la parte. E ogni giorno la parte ci possiede. La parte ci possiede e noi la interpretiamo, ci modifichiamo in funzione anche della parte. Ma oltre alla parte, noi modifichiamo il nostro ambiente. Il teatro, l'immaginazione, la finzione, è perché noi non possiamo, la vita è una sola, e noi non possiamo sperimentare delle cose e poi dire: ci è andata male, abbiamo perso vita, soldi. Per cui noi, in questo teatro che quotidianamente facciamo, noi facciamo delle simulazioni per provare dei nuovi ambienti e poi, se funzionano, se capiamo che potrebbero funzionare, riuscire ad attuarli. E quindi, che cosa ci ha fatto evolvere per cui le città del Rinascimento non sono uguali a quelle che c'erano nel Medioevo e non sono uguali a quelle di oggi e non saranno uguali a quelle di domani? Siamo noi che ce le siamo inventate, immaginandoci prima degli ambienti che potevano accogliere le nostre istanze ideali, ma anche di immaginazione. E poi, quando abbiamo intuito che alcune cose potevano funzionare, le abbiamo realizzate. Poi magari ci siamo accorti che non funzionavano così bene. E ad esempio, io porto sempre questo esempio sulle città, proprio per chiudere su questo tema. Due città contrapposte. Una città di un tempo passato, i Sassi di Matera. Se voi avete visitato, andate, e se non siete ancora stati, andateci, nei Sassi, voi trovate, secondo me, uno dei più bei luoghi che l'umanità abbia mai fatto. Eppure, se prendete ogni singolo elemento, non ce n'è uno significativo. Non c'è una casa importante, non ce ne sono nemmeno due, non c'è nemmeno una chiesa importante. Sono chiese addirittura rupestri, che non hanno nemmeno grande visibilità, ma nell'insieme è uno spettacolo. Poi un giorno andate a Dubai e vedete la concentrazione dei più grandi cervelli dell'architettura del mondo. Fanno a gara di chi ce l'ha più lungo. Siccome mediamente sono maschi, fanno a gara di chi ce l'ha più lungo. Io ce l'ho 800 metri, tu 750, io 900, adesso stanno costruendo un altro grattacielo ancora più grande. Questi grattacieli singolarmente presi potrebbero anche avere una loro qualità. Poi tu, quando guardi l'insieme, e io dovrei vivere in quel posto là, non ci penso nemmeno. Questo per dire che loro non hanno avuto il tempo di simulare prima che ambiente volevano, perché nella vita le cose che vanno troppo di fretta non funzionano sempre al meglio. E se pensate, Dubai l'hanno costruita a partire da pochi decenni fa. Prima era un paese produttore di petrolio, poi gli è finito, e per inventarsi un posto dove far divertire l'Arabia Saudita, perché là non possono fare nulla, mentre vanno lì e trovano champagne, alcol, donne, spettacoli e tutto quello che gli va dietro, hanno costruito Dubai. E noi siamo così scemi che prendiamo come riferimento quel posto lì quando abbiamo le più belle città del mondo. Qualche anno fa a Milano una serie di imprenditori mi chiama e mi dice: architetto, cosa ne pensa della nuova Milano con questi bellissimi grattacieli? E io gli ho detto: per me la state rovinando. E perché, architetto, cosa dice? Cosa dico? Milano era bella perché era tutta alta uguale, molto compatta, con degli edifici che avevano un grandissimo fascino, adesso la state trasformando in Dubai moderna. E alcuni grattacieli, non so se lo sapete, sono fatti da studi internazionali che erano fatto uno a Milano e uno a Dubai. Sono uguali. Perché tutto sommato, una volta che ho fatto il progetto, perché non lo riciclo, che tanto mi costa relativamente poco. Questi ambienti servono a noi. La città serve, e l'ho detto in quello spettacolo del 2022, secondo una mia ipotesi di lavoro, serve come meccanismo per continuare ad allenare la nostra intelligenza. Che la nostra intelligenza è un muscolo dentro il cervello che se non viene allenato diventa stupido. Ma noi in questi anni stiamo pensando che sia molto meglio investire invece che nell'intelligenza umana, in quella artificiale. E il giorno in cui l'intelligenza artificiale aumenterà ancora un po', noi diventeremo stupidi del tutto, già lo siamo molto, no? Basta vedere quello che accade in giro per il mondo e chi ci governa. Ma al di là di questo, uno dei compiti di queste conferenze è dire che noi non dobbiamo abbandonare il valore della nostra capacità mentale. Dobbiamo quotidianamente allenarla, dobbiamo continuamente leggere e studiare, perché è l'unico modo di contrapporci a un'intelligenza artificiale che rischia semplicemente di renderci non solo ininfluenti, ma assolutamente inutili. Inutili. Perché qualcuno mi sta anche dicendo che adesso non c'è ancora arrivata, ma a breve riuscirà anche a essere creativa. E il giorno in cui l'intelligenza artificiale sarà anche creativa, noi che ci stiamo a fare sulla Terra? Siamo l'unica specie, nessun'altra mai vivente, che sta facendo di tutto per autoeliminarsi, oltre che a tutti i problemi ambientali, guerre, via dicendo. Noi stiamo costruendo gli strumenti per autoeliminarci da soli. E il giorno in cui viviamo in un mondo fatto di stupidi, perché basta guardare i social per capire la stupidità che gira per il mondo, abbiamo capito che non è più molto appassionante viverci dentro. E tutto questo discorso per dire, dove le cose appaiono e diventano disponibili grazie ai nostri corpi e alla loro capacità di sentire, abbiamo 5 sensi per sentire una serie di cose, oltre di oltrepassare i nostri limiti, riempire i nostri vuoti e realizzare i nostri sogni, che è quello che è il mandato evolutivo della nostra specie. Grazie per l'attenzione. Mi piace intervenire con le parole che hai detto e con i 4 segni che grazie ai cellulari mi sono riuscito a memorizzare e segnarmi le cose che dicevi. È vero che l'intelligenza artificiale, hai chiuso con l'intelligenza artificiale, ma è il punto centrale delle nostre discussioni ultimamente. Mio figlio 3 giorni fa era a Nashville, convocato dall'Autodesk a fare una relazione sull'intelligenza artificiale che lui sta progettando, controllando e governando a Copenaghen nel suo mega studio. È andato a dire quanto è inutile, inesistente il suo lavoro, cioè l'intelligenza artificiale, che è il contenitore di tutto quello che è misurabile. L'ha detto Claudio, l'ha sottolineato il punto centrale, quello dell'emozione, quella parte dell'umano, della sensibilità umana, del sogno umano, che non può essere misurato. La sua ricerca oggi sta andando tutta in quel punto, per garantire che tutto questo non sia mai misurabile. Dobbiamo impegnarci continuamente a non far misurare niente di quello che pensiamo, sentiamo, diciamo, altrimenti arriva l'intelligenza artificiale, ce lo imita, ce lo copia e mette, meglio di noi, lo fa meglio di noi. Nel senso che lo rifà sempre uguale, noi poi lo sbagliamo anche, ma per fortuna che ci sono gli errori. L'intelligenza artificiale sa anche sbagliare, sa anche programmare gli errori che ogni tanto può fare, e quando li fai automaticamente un progetto ti mette le cose, qualche errore qua e là lo mette, e come che lo mette? Perché lo fa sembrare più umano, più vero, perfetto. In questo senso è un impegno che ognuno di noi ci prendiamo giorno per giorno per riuscire ad arrivare alla città, arrivare a quello che stavamo dicendo, ed essere teatro recitando la nostra parte. Parte che non è soltanto teatrale, che non è soltanto di partecipare, ma è scegliere e decidere, essere di qua e di là. Non ancora l'intelligenza artificiale decide, gli viene automaticamente, ma non si ferma a decidere e non può cambiare da un giorno all'altro magari l'impressione, quello che, così come l'hai detto. Cerchiamo di scriverci qualcosa allora a questo punto. Grazie Claudio. Figurati. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? È un discorso lungo, difficile, complesso, che però a mio avviso va fatto, la comunità va fatta, perché quello che io percepisco anche emotivamente è che noi stiamo frantumando la nostra comunità, la stiamo polverizzando. Nel momento in cui siamo tutti polverizzati, non siamo più in grado di incidere sugli eventi, troppo grandi gli eventi. Allora possiamo anche contestare, ma che forza abbiamo per far cambiare gli eventi, tipo la guerra in Palestina o tipo la guerra in Ucraina? Non abbiamo più questa capacità. Invece, pensate solo qualche decennio fa cosa i cantautori americani riuscirono a fare facendo bloccare la guerra in Vietnam. Noi non gli attribuiamo tutto questo valore, ma hanno messo in piedi una quantità di movimento civile, di giovani e via dicendo, che ascoltavano quelle canzoni, che alla fine hanno costretto la politica a bloccare, perché erano i loro stessi amici di cortile a non tornare più da quella guerra. Noi oggi facciamo fatica a fare comunità e a fare peso. Non riusciamo nemmeno a incidere più sulle scelte banali amministrative, come dicevamo prima. Per cui una città piccola come la nostra, che potrebbe vivere in una specie di paradiso terrestre, immerso nel verde delle colline limitrofe, senza inquinamento, noi invece viviamo in una città che è una delle più inquinate d'Italia, con un tasso di tumori spaventoso. Sarà dovuto anche ad altri elementi, ma nessuno mi può non far pensare che ci sia anche lo zampino dell'inquinamento, dell'autostrada e via dicendo, no? E con un traffico indecente, per una città di 100.000 abitanti, indecente, dove a piedi rischi in un'ora di attraversarla tutta, poi invece in macchina ci impieghi 1 ora e 10. Qual è il senso di questa cosa? E io continuo a non capirlo, perché se le strade, i semafori, gli autobus non sono programmati in maniera diversa, ma vanno sulle stesse corsie stradali, poi abbiamo le corsie preferenziali, qualcuno ci ha detto, sì, a tratti. Dopodiché, se uno volesse vedere che cosa succede veramente nei paesi avanzati, le corsie preferenziali si fanno in mezzo alle strade. Una corsia. Perché due non te le puoi permettere, non c'è posto abbastanza, con una serie di luoghi dove i due autobus, che hanno dei transponder per capire quando arriva uno e quando arriva l'altro, si fermano quel tanto che basta per fare arrivare l'altro autobus che va sulla stessa corsia. Noi abbiamo dei cartelli alle fermate della SASA, dell'autobus insomma, dove ci sono i tempi in cui arriva l'autobus, ma che sono tempi in base all'orario che c'è sulla tabella, non in base alla reale transponder dell'autobus. Per cui tu sei là, ti dice che l'autobus è arrivato, ma non c'è. Passano 3 minuti e non c'è, e ti dice che non c'è più. Poi arriva. E se tu per caso hai preso i tuoi piedi per dire ormai ho perso l'autobus, me ne vado a piedi, nel frattempo arriva, perché non c'entra nulla quella roba là. Siamo fermi agli anni 60. Ad esempio le famosi circolari, in cui sono nate perché si voleva far poca fatica alle persone che lo usavano, che erano prevalentemente 2 categorie, poi la chiudo qua. I pensionati, per cui con un ticket minimo si facevano un bel giro in città, una bella giostra, quasi gratis, e gli studenti, che aveva l'unica scusa di arrivare in ritardo perché l'autobus era sempre in ritardo. In tutto il mondo che funziona, gli autobus viaggiano su percorrenze lineari, e quando devono andare in un'altra direzione di solito si scende in quel punto perché c'è un'altra direzionalità. Noi partiamo da Don Bosco, gli facciamo fare tutta la città a uno per arrivare in Piazza Walter E tu dici la maggioranza degli autobus parte dalle varie periferie per arrivare in città. Bene, durante il giorno quanta gente c'è in Piazza Walter a parte i turisti, di cittadini, e quanta gente c'è in zona produttiva? 80.000 persone sono in zona produttiva, pochissime in città. Ma noi abbiamo ancora la maggioranza degli autobus che vanno in centro città. E mio figlio che lavora a Livecco, l'autobus non lo prende. Perché non lo può prendere? Perché non ha gli orari compatibili con il lavoro? E 800 dipendenti di Livecco, non c'è nessuno che prende l'autobus. Ha senso questa cosa? Vi chiedo, ha senso questa cosa? Ma noi ci stiamo lamentando. L'Alto Adige, qui mio fratello, grande medico, fino a 20 anni fa era un'eccellenza internazionale, 10 anni fa forse un'eccellenza nazionale, adesso abbiamo una sanità che fa schifo, ma noi non diciamo nulla. A noi va tutto bene. Io ho avuto 3 casi in famiglia, con operazioni fatte a Bolzano sbagliate, siamo dovuti andare fuori. E fuori ho visto un altro mondo, di accoglienza, di gentilezza, di competenza. Poi non è detto che qui non ci sia nessuno, voglio dire, ci sarà qualcuno anche qua, bravo, competente, gentile, tutto quello che... Ma non c'è confronto, e con quello che spendiamo dovremo un pochino lamentarci. Dopodiché educazione, scuola. Abbiamo le peggiori scuole del territorio nazionale. È possibile che noi abbiamo delle scuole pessime da tutti i punti di vista e ci vantiamo che siamo una delle province migliori in Italia? Per cosa? È una vita che abito qua. C'ho 66 anni, il tedesco non lo so. Pure sposato una donna tedesca, il tedesco non lo so. Voi direte, sei di Coccio tu? Ed è vero. Ma un po' di cose intelligenti nella vita le ho fatte, per cui se non ho imparato il tedesco forse non mi hanno messo nella condizione giusta di poterlo fare. E quanti della mia generazione non hanno imparato il tedesco? Perché ce l'hanno insegnato male, perché non ne fregava niente a nessuno? E quanti della mia generazione non sanno l'inglese, che forse è ancora più importante? Allora, le lingue niente. Io vedo i miei collaboratori quando scrivono le relazioni in italiano, mi metto le mani nei capelli, correggo il minimo indispensabile perché sennò le devo riscrivere. Sembrano analfabeti. Qualche volta andate a fare un corso di italiano, andate a fare un corso di italiano. E no, ma dobbiamo fare questo, il cat, il bim, e non abbiamo tempo. E l'italiano non lo sanno più. Leggono. Il migliore dei miei collaboratori se legge 3 libri all'anno è tanto, ed è il migliore. Gli altri non leggono. Possiamo permetterci di non leggere più nulla? Questo è il futuro che ci si prepara. Qua dentro, in questa sala, parte una giovane ragazza, siamo tutti vecchiotti. E se noi non diamo una prospettiva migliore alle nuove generazioni, ho il sospetto che non ci sia un grande futuro, per noi ovviamente non più, ma neanche per loro. E soprattutto in questa terra, che negli anni scorsi, in fondo alla sala, c'è un signore che per anni ha fatto grande attività culturale in questa città, di tutti i tipi, dal cinema al teatro, si è inventato di tutto. Poi lo abbiamo messo da parte perché ogni tanto, chissà perché, non ci vanno più bene le persone che hanno fatto molto per molti anni. E io a 15 anni ho sentito un concerto di De Gregori, ho sentito un concerto di Chet Baker a Bolzano gratis. No, a Bolzano. Ah. Poi ho visto una mostra di Picasso a Castelmareccio e quando sono andato all'università la prima cosa che ho fatto è a vedere la mostra di Picasso a Palazzo Grassi. Era più bella, fatta meglio, con quadri migliori. Ma se io non avessi avuto quell'imprinting a Bolzano, forse neanche a Venezia sarei andato. Sono decenni che a Bolzano una mostra decente non c'è più. Abbiamo un museo di arte dove li portano dentro a forza, voglio dire qualche scuola, ma io non ci sono mai entrato se non alla prima mostra inaugurale. C'è un teatro stabile con un grandissimo direttore, nessuna polemica, il più bravo da secoli a questa parte, roba varia, che però non fa più produzioni. Un teatro stabile dovrebbe produrre, avere una compagnia, una regia. No, lui finanzia decine di altre compagnie e poi ha deciso che la cosa principale è il cartellone. Poi ci mette dentro la danza, che col teatro vero non c'ha molto a che fare, è sempre importante, ma non c'entra molto. fa il cartellone perché vuol copiare il piccolo di Milano, ma il piccolo di Milano c'ha 4 teatri, noi ne abbiamo uno, abbiamo una stagione teatrale, dateci qualche spettacolo in più, producete qualcosa in più in questa benedetta città, fate lavorare qualche giovane di questa città, formatelo a fare anche il lavoro del teatro. Grazie a voi di essere venuti.